Savonarola, il frate che sabotò Firenze. Prose scelte, un programma prodotto da Davide e Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari che a suo tempo festeggiò Firenze, capitale d'Italia, e lette da me che ad oggi non ho mai festeggiato la Fiorentina campione d'Italia. D'altra parte non lice che dappertutto il giglio abbia radice. Serio, capitolo 15, averle o non averle. Non appena Piero dei Medici ebbe veduto che gli ambasciatori venivano in nome della Repubblica senza fare a lui alcun segno di ossequio, capì subito che qualche grave mutamento era avvenuto nella città. Raccomandava perciò caldamente al re la sua causa e prometteva di pagargli 200.000 ducati. Raccomandava a Paolo Orsini di raccogliere le sue genti, di soldare nel contado quanti uomini potesse e venire subito a Firenze, dove egli entrava frettolosamente la sera dell'8 novembre. La mattina seguente presentavasi al palazzo verso le ore 11 accompagnato da molta gente con la intenzione di raccogliere il popolo a Parlamento e restringere nelle sue mani tutto il governo. Ma la signoria, che era già istruita del suo disegno, lo fece passare con alcuni solamente dei suoi compagni e, ricevutolo con gran freddezza, gli raccomandava di licenziare la gente assoldata per non mettere se stesso e la città a qualche inutile cimento. Pietro restò talmente confuso da un'accoglienza così fredda e risoluta che, non sapendo come decidersi, se ne uscì, dicendo che egli avrebbe prima deliberato sul da fare e poi sarebbe venuto di nuovo a renderne conto ai signori. Tornato a casa mandava ordine all'Orsini che si impadronisse della porta a San Gallo, ed egli armatosi si presentava il giorno al palazzo con una guardia di gente parimente armata, ma sull'uscio trovava alcuni dei collegi che gli impedivano l'entrata, dicendo avere ordine di non lasciarlo passare altro che solo e senza armi e per lo sportello piccolo. Ed egli allora, tutto sbuffante di sdegno e minaccioso, tornavasene indietro. Non aveva però dato appena due passi che veniva chiamato da un mazziere della signoria, mandato per ordine di messer Antonio Lorini, il solo che fosse tra i signori restato ancora amico ai Medici. Costui trovavasi appunto quel giorno tenere l'ufficio di proposto, onde, a lui toccando il proporre le deliberazioni da fare, aveva in quel giorno potuto impedire che se ne facesse alcuna contro a Piero dei Medici, ed essendo a lui pure affidate le chiavi della torre, aveva sino allora impedito che si suonasse la campana per raccogliere il popolo. Ma ora che, trascorrendo tutti i limiti e contro la volontà di ognuno, richiamava indietro il Medici, messer Luca Corsini, insieme con Jacopo De Nerli e Filippozzo Gualterotti, scesero alla porta e difatti gli vietarono il passo. Piero, che nel vedersi richiamato aveva già ripreso il suo orgoglio, voleva usar modi superbi, ma il Nerli, respingendolo con ingiuriose parole, gli chiuse l'uscio in sul viso. Il popolo, che s'era trovato testimonio di questo fatto, cominciò a levargli il rumore addosso e per maggior dispregio lo cacciavano via solamente con le grida e coi becchetti dei cappucci, mentre i fanciulli lo inseguivano coi fischi e coi sassi. Piero, con la spada sguainata in mano, non sapendo né usarla né rimetterla, si restrinse pauroso in mezzo ai suoi, atterrito dalla sola voce di quel popolo che aveva poco prima tanto superbamente calpestato. Mentre così retrocedevano gli uni e gli altri inseguivano, scontrarono per via il bargello Piero Antonio dell'Aquila, il quale, volendo aiutare Medicei, fu dal popolo, che era senza armi, disarmato e svaliciato con tutti i suoi. Menatolo poi al suo palazzo, gli fecero liberare i prigionieri e, ritornando i sollevati indietro, fu singolare il vedere come le armi tolte al bargello fossero le prime che si brandissero in difesa della libertà. Ma già la campana della signoria cominciava a suonare a distesa e tutto il popolo correva tumultuoso in piazza. Abbandonavano le case, chiudevano le botteghe, uscivano con le ronche, con gli spiedi, coi pali, con ciò che trovavano. Alcuni vecchi cittadini si vestirono quel giorno con abiti d'antica foggia e con armi arrugginite che rammentavano i tempi della Repubblica ed erano accolti con grida di gioia ogni volta che comparivano nella folla. Non s'era appena il popolo radunato in piazza quando, ecco, tutto polveroso, a cavallo d'una mula, Francesco Valori arrivare da Pisa, dove aveva parlato con gli ambasciatori fiorentini. La gente si stringeva intorno a lui chiedendo notizie, ed in un momento egli si trovava nel più fitto del tumulto. Il Valori era stato un antico partigiano dei Medici, adoperato da Lorenzo in molti impieghi, e fu uno di quei cinque cittadini mandati al Savonarola per consigliarlo a moderare le sue prediche. Ma da quel momento esso cominciò invece a sentir simpatia per il frate, ed a poco ne divenne uno dei più caldi seguaci. Il malgoverno di Piero lo spinse poi decisamente nel Partito Popolare, che assai più si addiceva alla natura del suo carattere. Egli aveva infatti tutte le qualità d'un capopopolo, impetuoso e ardito, di poca testa e di gran cuore, eccessivo in tutti i suoi partiti, e trovavasi in mezzo ai tumulti come a casa sua. E quel giorno, su quella stessa mula, così polveroso come egli era, cominciò ad arringare la moltitudine. Raccontava come gli ambasciatori avevano a Lucca trovato il re assai ben disposto, ma che, seguitolo a Pisa, ne erano stati freddamente ricevuti, perché Piero dei Medici, prima di lasciare il campo, aveva fatto 1000 preghiere e 1000 promesse a danno della città. Quando poi s'avvide che il popolo era venuto in furore, si mise alla sua testa e col grido di «Abbasso le palle!» lo condusse a salire la casa dei Medici. Piero aveva in questo mezzo fatto chiamare l'Orsini con la sua gente, s'era armato di tutto punto e con la forza voleva ritornare in palazzo. Il cardinal Giovanni, suo fratello, s'era già avviato innanzi e, correndo le vie, cercava sollevare il popolo in suo favore col grido di «Palle! Palle!», ma niuno gli rispondeva, anzi, molti dalla strada e dalle finestre lo minacciavano. Quando fu giunto alla chiesa di San Bartolomeo, egli poté distinguere la moltitudine guidata dal Valori, che armata e tumultuante si avvicinava, onde assai rapidamente volse indietro i suoi passi. Arrivato a casa, trovò che Piero s'era già dato alla fuga. Avendo esso ricevuto un bullettino della signoria che dichiarava ribelli lui e il cardinale, e saputo come questi già retrocedeva, non gli era bastato l'animo neppure da aspettarlo, e raccolta la poca gente che aveva intorno era corso alla porta a San Gallo. Ivi fece l'ultimo tentativo di sollevare quel borgo popolato di infima gente, stata sempre affezionatissima alla sua casa, ma invano egli alzava la voce, invano gettava oro per le vie. Anche quell'ultima plebe lo guardava con disprezzo, correndo invece verso il palazzo dei signori. Allora si persuase finalmente che era inutile sperare e che bisognava invece provvedere a salvare la vita. Avvilito, prostrato da tante traversie che in sì breve spazio gli erano venute addosso, si mise per la via di Bologna e non s'era appena allontanato pochi passi che vide chiuderglisi dietro la porta della città. Egli andava in compagnia del fratello Giuliano e da alcuni pochi soldati, i quali, più di lui spauriti per la tema d'essere nella campagna, assaliti e messi a pezzi dai contadini, lo lasciarono la più parte prima di uscire dai confini della Toscana. Giunto infine a Bologna, stracco e trafelato dal lungo viaggio, con poca e misera compagnia, fu dal Bentivoglio quasi villanamente ricevuto. «Mi sarei lasciato piuttosto tagliare a pezzi», egli disse, «che abbandonare lo Stato». Non andò guari, peraltro, che presentatosi un uguale pericolo, anche il superbo Bentivoglio si dette vilmente alla fuga. Piero, intanto, sempre più abbattuto dall'avversa fortuna, continuava oltre il viaggio sino a Venezia, dove finalmente trovava cortesia e riposo. Anche ivi ebbe il dolore di vedere che il Soderini, ambasciatore fiorentino, s'era già dichiarato in favore del nuovo governo, ma la signoria veneziana lo accolse con tutti gli onori che soleva usare verso i principi decaduti, e ciò fu un gran sollievo al suo animo travagliato. A lui pareva d'essere in quei pochi giorni vissuto un secolo, ed ora si destava come da un lungo sogno e cominciava a comprendere con quanta stoltezza si era condotto e con quanta viltà aveva abbandonato lo Stato senza che ancora nessun reale pericolo lo avesse minacciato, e quando già il re Carlo si era volto in suo favore. E certo, se in quei primi giorni egli avesse saputo mostrare un animo risoluto, avrebbe potuto spegnere o frenare quei movimenti sul nascere, sicuro poi com'era del vicino aiuto di Francia. Infatti, quel re tanto gli era divenuto favorevole che già arrivavano suoi messi a Venezia invitando Piero dei Medici a tornare in Firenze. Ma questo oggi mai non bastava più l'animo di trovarsi una seconda volta in mezzo a quel popolo tumultuante, le cui grida minacciose ancora pareva che lo spaventassero. Intanto arrivava a Venezia anche il cardinale, che nella sua fuga aveva mostrato animo maggiore. Assai più tardi aveva abbandonato la città, travestito da frate, con molta fatica e non senza grave pericolo. Aveva presi tutti quegli oggetti più preziosi che potette nel disordine raccogliere e portateli subito ai frati di San Marco, riusciva in questo modo a salvarli, come fecero anche parecchi altri di quei cittadini che sapevano d'essere più invisi al popolo. Tanto era grande appresso tutti il nome della onestà di quei frati, che mentre il loro convento era tenuto quasi centro del Partito Popolare, i partigiani dei Medici e il cardinale medesimo non sapevano ove meglio ricoverare le loro cose più preziose. In questo mezzo la signoria metteva una taglia di 5.000 fiorini per chi consegnasse vivi Piero il cardinale e di 2.000 per chi li desse morti. Si cercava nel medesimo tempo distruggere ogni memoria del passato. Erano cancellate dal palazzo del Podestà le immagini dei ribelli del 34, dalla porta della dogana quelle dei ribelli del 78. Venivano richiamate le famiglie dei Neroni, Dio ti salvi, dei Pazzi e di molti altri esuli o confinati, fra i quali erano Lorenzo e Giovanni de' Medici, cugini di Piero, che appena tornarono nati levarono dalle loro case le insegne delle palle per mettervi l'arme del popolo, e di medici che erano si vollero chiamar popolani. Così cominciavasi già ad adulare quella moltitudine pochi giorni innanzi tanto villipesa. Il tumulto intanto cresceva e la plebe sembrava cominciare a divenire ebra nel disordine. Andavano a sacco le case di Giovanni Guidi, notaio e cancelliere delle riformagioni, e d'Antonio Miniati, provveditore del monte, due uomini che erano stati strumenti dei medici e sottili consiglieri nel trovar modo a gravare il popolo di imposte incomportabili, onde erano divenuti l'odio di tutta Firenze. Fu del pari saccheggiata la casa del cardinal Giovanni dei Medici e quel giardino di San Marco ove essi avevano raccolto tanti oggetti preziosi di arte. Ancora non s'era cominciato a sparger sangue, ma pure molti vi erano assai inclinati e vi sarebbero certo venuti se i partigiani del Savonarola non si fossero molto adoperati per impedirlo, se d'ora in ora non si fosse aspettata la sua venuta dall'ambasceria a Re Carlo e se la signoria non avesse con severissimi bandi cercato di metter termine a questi disordini. Ad accrescere però i mali umori arrivavano ora gli ambasciatori da Pisa e portavano del re Carlo notizie poco soddisfacenti. Essi gli avevano esposto la città essergli amica ed apparecchiarsi già a riceverlo con quegli onori che erano convenevoli alla sua maestà, chiedere solo che siccome da amico era ricevuto, così da amico volesse comportarsi, venisse perciò sin d'ora agli accordi a ciò che la pubblica gioia più compiuta si potesse manifestare. Ma quel re non dava mai altra risposta se non che dentro alla gran villa s'assetterebbe ogni cosa, e dalla sua freddezza appariva evidente che le istanze, le preghiere e le promesse che Piero dei Medici gli aveva fatto di danari, di obbedienza, di ogni cosa, lo avevano volto in suo favore, onde gli ambasciatori tornavano ora senza alcuna conclusione e solo potevano assicurare il re non esser punto favorevole alla Repubblica. Se non che, quando essi avevano fallito l'intento loro, il frate di San Marco si presentava al campo francese e, passato fra quella gran moltitudine d'armati, arrivava finalmente alla presenza del re che, in mezzo ai suoi generali, gli faceva assai lieta accoglienza. Ed il frate, senza molti preamboli, cominciava un breve sermone che pronunziò con voce sonora e con accento quasi imperioso. «O cristianissimo re, tu sei uno strumento nella mano del Signore che ti manda a sollevare i mali d'Italia come io già da più anni ho predetto e ti manda a riformare la Chiesa che giace prostrata in terra. Ma se tu non sarai giusto e misericordioso, se tu non rispetti la città di Firenze, le sue donne, i suoi cittadini, la sua libertà, se tu dimentichi l'opera per cui il Signore ti manda, esso allora sceglierà un altro per adempierla, aggraverà la sua mano adirata sopra di te e ti punirà con flagelli terribili. Queste cose io ti dico da parte del Signore». Il re e i generali sembrarono udire assai attentamente le minacciose parole del Savonarola e prestarvi grandissima fede. Era infatti venuta in ognuno l'opinione che quegli eserciti fossero veramente guidati dal Signore ad un fine provvidenziale, e il re Carlo nutriva una grande venerazione per colui che aveva profetato la sua venuta e assicurava prospero successo alle sue imprese. Onde quel sermone pareva che mettesse davvero un certo terrore nell'animo suo e lo risolvesse a comportarsi più onestamente coi fiorentini, ai quali il Savonarola, tornando poco dopo gli altri ambasciatori, portava migliori speranze.